Il lattaio avaro. Molto tempo fa, in un piccolo villaggio, vivevano Harry e sua moglie Gloria. Harry era un lattaio. Insieme, il marito e la moglie possedevano una stalla. La coppia si prendeva cura di tutte le mucche. Davano loro fieno da mangiare e le accudivano bene. Per questo motivo, tutte le mucche di Harry producevano un'eccellente qualità di latte. Tutti nel villaggio compravano il latte solo da Harry. Harry e Gloria guadagnavano bene e conducevano una bella vita. Ma nonostante ciò, Harry non era felice. Aveva sempre sognato di comprare una grande casa e vestiti costosi. Ho visto una grande casa alla periferia del nostro villaggio. Dovremmo comprarla. Possiamo avere un'auto molto costosa e molti camerieri per servirci. Indosseremo i vestiti più costosi e tutti questi poveri abitanti del villaggio saranno gelosi di noi. Questa avidità non ti porterà da nessuna parte. Guadagniamo abbastanza e dovremo essere felici. Come puoi essere felice in questa piccola casa? E di queste mucche? Ah, l'odore di queste mucche è troppo! Ma questo è ciò che ci dà da vivere? Non per molto tempo. Ricorda le mie parole. Un giorno sarò l'uomo più ricco di questo villaggio. Ah. Ogni giorno, mentre Harry andava a vendere il latte, gli abitanti del villaggio lo lodavano. Harry, questo latte è così buono e sano. Devi prenderti davvero cura delle tue mucche. Ah, sì, sì, sì, ma non per molto. Una volta diventato ricco, venderò tutte quelle mucche. Non mi piace quell'odore in casa mia. Ma queste mucche ti danno da vivere. Non dovresti lamentarti del tuo lavoro. Ti aiuta a sopravvivere. Vendo uova per vivere. Anche questo è un lavoro puzzolente, ma non mi dispiace. Questo è il mio lavoro. Bene, bene, bene. Allora forse eri destinato a vendere uova. Ma io sono destinato a fare cose più grandi, per comprare oggetti costosi e vestiti costosi. Questa avidità non ti porterà da nessuna parte, amico mio. Prima lo comprenderai, meglio sarà. Ah, ho perso abbastanza tempo qui. Ti auguro il meglio con il tuo piccolo business puzzolente. Addio. Harry aveva fretta di guadagnare di più. Cercava sempre di trovare un modo per diventare ricco. È tutto? Questo è molto meno. Come posso vendere più latte? Ci deve essere un modo. Le mie mucche sono tutte in salute. Non posso spingerle a darci più latte. Inoltre, questo è un piccolo villaggio. Anche se avrò più latte, a chi lo venderò? Aspetta, posso andare al villaggio vicino. Ci sono molte famiglie lì. Ah, ma poi dovrò comprare un'altra mucca. E adesso non ho abbastanza soldi per quello. No, devo fare qualcosa. Voglio comprare una casa più grande. Vediamo. Non ho abbastanza soldi per comprare un'altra mucca, ma devo aumentare la quantità di latte. Come lo faccio? Mentre camminava, incontrò un fiume. Alla fine, travolto dall'avidità, Harry ebbe un'idea. Che ne dici di mischiare un po' d'acqua nel latte? In questo modo non dovrò comprare un'altra mucca. E allo stesso tempo potrò vendere latte al villaggio vicino. Oh, questa è un'idea geniale! Nessuno se ne accorgerà se aggiungo solo un po' d'acqua. Ed è proprio ciò che Harry fece. Il mattino dopo, Harry cominciò a riempire i suoi contenitori di latte. Ma questa volta li riempì solo a metà e se ne andò. Poi si fermò al fiume e aggiunse un po' d'acqua. Quel giorno, proprio come sempre, gli abitanti del villaggio comprarono felicemente il latte da Harry e lo pagarono allo stesso modo. A causa dell'acqua aggiunta, rimase più latte ad Harry che andò a venderlo nel villaggio vicino. quella notte, Harry era molto felice. È fantastico! Se continuo così, diventerò presto molto ricco. Aveva ragione. Passarono i giorni e Harry era ora più ricco di prima. Comprò una macchina per sé e ristrutturò la casa. Era così abituata ad aggiungere acqua al latte che non pensò di comprare un'altra mucca neanche una volta. Con l'aumentare della domanda di latte, aumentava anche l'acqua. Andò avanti per settimane. Ma poi i paesani cominciarono a notare qualcosa. Si sentivano chiacchiere nel villaggio riguardo al nuovo latte acquoso. Vogliosi di conoscere la verità, alcuni abitanti del villaggio si radunarono fuori casa di Harry. Che cosa c'è? Harry, abbiamo delle lamentele riguardo al latte che vendi. Sa di acqua! Cosa? Come ti permetti di dirlo? Paghiamo per il latte, Harry, non per l'acqua. Non puoi ingannarci. Niente è cambiato. Tutti voi non sapete apprezzare la bontà. Lavoro davvero sodo. Andate a comprarlo da qualche altra parte, se non vi piace. Non ho bisogno di voi. Ci sono tanti altri villaggi che possono tranquillamente amare il latte che vendo. Harry entrò in casa e sbatté la porta. Gli abitanti del villaggio rimasero scioccati dal comportamento maleducato di Harry. Qualcosa non va. Sono d'accordo, dobbiamo scoprire cosa. Così pianificarono di scoprire la verità. Il mattino seguente, come al solito, Harry si diresse al fiume. Aprì i suoi contenitori riempiti a metà di latte e versò l'acqua nell'altra metà. Ma non sapeva di essere osservato. Come osa! Questo non è giusto! Ecco come mai sta diventando più ricco. Seppure ha lo stesso numero di mucche, riesce a vendere latte a così tante famiglie! Gli abitanti del villaggio capirono tutto e decisero di insegnare all'avido lattaio una lezione. Il giorno dopo, Gloria andò al mercato per comprare i legumi. Quella sera, quando Harry tornò dal lavoro, si sedettero entrambi a cena. Cosa hai cucinato? Hai cucinato delle pietre? Pietre? No, questi sono legumi. No, non lo sono. Non ci credo. Il venditore ti ha venduto piccole pietre insieme ai legumi. Come osa? Andrò a fargli visita domani. Quella notte, Harry e Gloria andarono a letto a stomaco vuoto. Il giorno dopo, Harry andò dal venditore con rabbia. Cosa ci hai venduto? Non abbiamo pagato per le pietre, abbiamo pagato per i legumi. Andate a comprare da qualche altra parte se non vi piace. Non ho bisogno di voi. Harry, arrabbiato, tornò a casa. Dopo un po' uscì per comprare una dozzina di uova. Quando tornò a casa e cercò di romperle, si rese conto che 10 delle 12 uova erano sassi. Era furioso. Cosa mi hai venduto? Ho pagato per le uova, non per le pietre. Nello stesso modo in cui noi abbiamo pagato per il latte e non per l'acqua? Vai a comprare da qualche altra parte se non ti piace. Non ho bisogno di te. Harry se ne andò arrabbiato. Il giorno dopo comprò una camicia di seta. Sulla via di casa iniziò a piovere. L'acqua mandò via tutto il colore dalla sua camicia. Quando arrivò a casa, si rese conto che la camicia non era fatta di seta, ma di juta. Questo andò avanti per alcuni giorni. Ogni volta che Harry andava a comprare qualcosa, tornava a casa con qualcosa di diverso. Sono stanca di questo. Perché non ci vendono la cosa giusta? Ci stanno prendendo in giro. Questo non è giusto. Harry era così occupato a pensare a se stesso e alla sua avidità che non si rendeva conto di aver fatto la stessa cosa con gli altri. Col passare del tempo, anche i villaggi vicini cominciarono a lamentarsi. Lentamente tutti smisero di comprare il latte da Harry. Senza soldi da spendere, Harry cominciò a svendere gli oggetti che aveva comprato grazie alla vendita di latte di bassa qualità. Ora Harry era un povero lattaio, Aveva solo una manciata di mucche e solo poche case dove poter vendere il latte. Ora capisci cosa hai fatto? La tua avidità è la ragione per cui siamo poveri. Se avessi continuato a vendere del buon latte come prima, avremmo potuto comprare una casa più grande e vestiti costosi. Tutto quello che dovevi fare era mantenere la pazienza e continuare a lavorare sodo. Sono d'accordo, Gloria. Avrei dovuto ascoltarti. Non ho solo perso i soldi, ma ho anche perso il rispetto e la fiducia della gente. Ah. Harry continuò a vendere latte e a prendersi cura delle sue mucche. Ora sapevo a quanto potesse essere pericolosa l'avidità. Aveva imparato una lezione. Da quel giorno in poi non aggiunse mai più acqua al latte e si accontentò di quello che guadagnava.